Qui, sui pendii delle colline, dinanzi al crepuscolo, dinanzi alla legge del tempo, vicino ai giardini dalle ombre spezzate, noi facciamo come fanno i prigionieri, facciamo come fanno i disoccupati, coltiviamo speranza. Un paese che si prepara all'alba. Non c'è notte della nostra notte illuminata da una pioggia di bombe. I nostri nemici vegliano, i nostri nemici accendono per noi la luce nell'oscurità dei sotterranei. Una donna ha detto alla nube: copri il mio amato, perché ho le vesti grondanti del suo sangue. Se non sei pioggia, amore mio, sii albero colmo di fertilità, sii albero. Se non sei albero, amore mio, sii pietra satura d'umidità, sii pietra. Se non sei pietra, amore mio, sii luna nel sogno dell'amata, sii luna. Così una donna, mentre dava sepoltura al figlio. Ronde della notte, non siete stanche di spiare la luce nel nostro sale, l'incandescenza della rosa nella nostra ferita, non siete stanche. Ronde della notte, un lembo di questo infinito assoluto azzurro basterebbe per alleviare il fardello di questo tempo, spazzare via la melma di questo luogo. Che l'anima scenda dalla sua cavalcatura e cammini con passi di seta al mio fianco, mano nella mano, come due amici di vecchia data che condividono il pane secco e un bicchiere di vino della vecchia vigna, e attraversare così insieme questa strada. Poi i nostri giorni seguiranno sentieri diversi, io al di là della natura, lei preferirà inerpicarsi su un'alta vetta. Siamo lontani dal nostro destino, siamo lontani come gli uccelli sono lontani, o nella cappa del camion, o nelle tende dove riposava il principe andando a caccia. Sulle mie macerie spunta verde l'ombra e il lupo sonnecchia sulla pelle della mia capra. Sogna come me, come l'angelo, che la vita sia qui, non laggiù. Quando si è assediato, il tempo diventa spazio, pietrificato nella sua eternità. Quando si è assediati, lo spazio diventa tempo, che ha fallito il suo ieri e il suo domani. L'assedio è attesa, attesa, su una scala inclinata, dove di più infuria l'uragano. Soli. Siamo soli a bere l'amaro calice, se non fosse per le visite dell'arcobaleno. Per alleviare la mia pena l'assedio continuerà, per convincerci a scegliere una schiavitù che non fa male, in piena libertà. Resistere significa accertarsi della forza del cuore e dei testicoli e del tuo male tenace. Il male della speranza. In quello che resta dell'alba io cammino verso il mio involucro esterno. In quello che resta della notte io ascolto il rumore dei passi rimbombare al mio interno. Io saluto chi come me insegue l'ebbrezza della luce e lo splendore della farfalla nell'oscurità di questo tunnel. Saluto chi beve con me dal mio bicchiere, nelle tenebre di una notte che entrambi ci avvolge. Io saluto il mio spettro. Per me i miei amici preparano sempre una festa da Dio, una sepoltura serena all'ombra delle querce, un epitaffio inciso nel marmo del tempo. E sempre ai funerali io li precedo, correndo verso di loro e dicendo: chi è morto? La scrittura, un cucciolo che morde il nulla. La scrittura ferisce senza lasciare tracce di sangue. Le nostre tazze di caffè, gli uccelli, gli alberi verdi nell'ombra azzurrina, Il sole che scivola di muro in muro con balzi di gazzella. L'acqua nelle nubi dalla forma illimitata. Ecco, tutto quello che ci resta. Il cielo. E altre cose. Dai ricordi sospesi. Altre cose che rivelano che questo mattino è un mattino di potente splendore. E noi siamo i convitati dell'eternità. La mia bandiera è colore nero. Il mio porto è una bara. La mia schiena è un ponte. Autunno del mondo, che dentro di noi sei demolito. Primavera del mondo, che dentro di noi sei generato. Il mio fiore è rosso. Il mio porto è aperto. E il mio cuore è un albero. La mia lingua è il mormorio dell'acqua nel fiume delle tempeste, negli specchi del sole e del frumento, nel campo di battaglia. Forse alcune volte ho smarrito l'espressione, ma sono stato senza vergogna, lo dico. Splendido, quando ho scambiato il mio cuore con l'oceano. Ho per te una parola che non dissi ancora. L'ombra è sulla finestra ed occupa la luna. Il mio paese è un poema. In esso io ero un suonatore. Ma poi divenni corda musicale. Il geologo è occupato, analizza la sua roccia, cerca i suoi occhi nelle rovine dei miti, vuole provare il geologo che io sono un viandante che non ha occhi, che io non ho nemmeno una lettera nel libro della civiltà. Eppure, io continuo a seminare i miei alberi, senza fretta. Continuo a cantare per il mio amore. I tuoi occhi sono una spina nel cuore. I tuoi occhi lacerano, ma io li adoro e li proteggo dal vento. Li conficco nella notte e nel dolore. Così la sua ferita illumina le stelle e trasforma il presente in futuro, più caro della mia anima. Dimentico, qualche tempo dopo, quando i nostri occhi si incontrano, che noi una volta eravamo insieme dietro il cancello. Le tue parole erano una canzone che io tentavo di cantare ancora. Ma la tribolazione si era posata sulle fiorenti labbra. Le tue parole, come la rondine, volarono via da casa mia. Volarono anche la nostra porta, la soglia autunnale, inseguendo te, dove si dirigono le passioni. I nostri specchi si sono infranti. La tristezza ha compiuto 2000 anni. Abbiamo raccolto le schegge del suono. Abbiamo imparato a piangere la patria. La pianteremo insieme nel petto di una chitarra. La suoneremo sui tetti della diaspora, alla luna sfigurata, ai sassi. Ma ho dimenticato. Tu, dalla voce sconosciuta, sai, io ho dimenticato. Se è stata la tua partenza ad arrugginire la chitarra, o è stato il mio silenzio? Ti ho vista ieri al porto, viaggiatore senza provviste, senza famiglia, e sono corso da te, sai, come un orfano chiedendo la saggezza degli antenati. Perché trascinare il giardino verde in prigione, in esilio, verso il porto, se rimane, malgrado il viaggio, ancora l'odore del sale, dello struggimento, sempre verde? Ho scritto sulla mia agenda: amo l'arancio e odio il porto. Poi ho aggiunto sulla mia agenda: al porto io mi fermai. La vita aveva occhi d'inverno. Avevamo le bucce dell'arancio. E dietro di me la sabbia era infinita. Giuro, tesserò per te un fazzoletto di ciglia, scolpirò poesie per i tuoi occhi, con parole più dolci del miele io scriverò: sei palestinese e lo rimarrai, palestinesi sono i tuoi occhi, il tuo tatuaggio. Palestinesi sono il tuo nome, i tuoi sogni, i tuoi pensieri, il tuo fazzoletto. Palestinesi sono i tuoi piedi, la tua forma, le tue parole, la tua voce. Palestinese vivi, palestinese morirai. Bramo il pane di mia madre, il caffè di mia madre, il tocco di mia madre. Cresce in me l'infanzia, giorno dopo giorno, ed amo la mia vita, perché nell'ora della mia morte io mi vergogno delle lacrime di mia madre. E se tornassi indietro, un giorno, tu prendimi velo per le tue ciglia, copri le mie ossa con erba benedetta dalla tua caviglia e stringi le mie catene con un ricciolo dei tuoi capelli, con un filo penzolante dall'orlo del tuo vestito. Forse, madre, io diverrei un dio diverrei, se toccassi le profondità del tuo cuore. Se tornassi indietro, madre, usami, combustibile nella fornace del tuo fuoco, corda da panni sul tetto della tua casa. Perché, madre, io divenni debole per stare in piedi senza la tua preghiera giornaliera. Madre, io diventai vecchio, decrepito. Restituiscimi, madre, le stelle dell'infanzia, così che io condivida con i piccoli uccelli il percorso di ritorno verso il nido della tua attesa. Fra Rita e i miei occhi si leva un fucile. Quelli che conoscono Rita si inchinano e pregano i suoi occhi di miele divino. Ho baciato Rita bambina e lei si è stretta a me, lo ricordo ancora. I suoi capelli mi coprivano il braccio. Io ricordo Rita come l'uccello ricorda la sua fontana, Rita. Un milione di immagini, un milione di uccelli, un milione di appuntamenti sono stati assassinati da un fucile. Il nome di Rita, festa per le mie labbra. Il corpo di Rita, nozze per il mio sangue. Per 2 anni io mi sono perduto in lei. Per 2 anni lei si è distesa sul mio braccio, uniti nel fuoco delle nostre labbra, e siamo resuscitati per 2 volte, Rita. Chi avrebbe potuto sciogliere i nostri sguardi prima che si levasse un fucile? Oh, notte di silenzio. C'era una volta. Una luna è calata all'alba. Lontano, in occhi di miele. E la città ha cancellato Rita e le canzoni. Oggi, fra Rita e i miei occhi, si leva un fucile. Ci respinge la terra, Ci costringe la terra nell'ultimo varco e ci spogliamo dalle membra per poter passare. Ci spreme la terra. Magari fossimo il suo grano per morire e rinascere. Magari fosse madre nostra perché abbia pietà di noi. Magari fossimo dipinti sulle rocce che il nostro sogno porterà come specchi. Abbiamo visto i volti di chi verrà assassinato dall'ultimo di noi in difesa dell'anima. Abbiamo pianto sulle feste dei loro bambini. Abbiamo visto i volti di chi lancerà i nostri bambini dalle finestre di questo ultimo spazio, specchi che la nostra stella appenderà. Ma dove andremo dopo le ultime frontiere? Dove voleranno le rondini dopo l'ultimo cielo? E dove dormiranno gli alberi dopo l'ultimo respiro d'aria? Scriveremo i nostri nomi con vapore scarlatto. Interromperemo il canto perché lo completi la nostra carne lacerata. Qui moriremo, qui, nell'ultimo passaggio, qui, o forse qui, pianterà i suoi olivi, il nostro sangue. Viaggiatori tra parole fugaci, portate i vostri nomi e andatevene. Ritirate i vostri istanti dal nostro tempo e andatevene. Rubate ciò che volete dall'azzurrità del mare, dalla sabbia della memoria. Prendete ciò che volete di immagini per capire che mai saprete come una pietra dalla nostra terra erige il soffitto del nostro cielo. Voi, viaggiatori tra parole fugaci, da voi la spada e da noi il sangue. Da voi l'acciaio, il fuoco e da noi la carne. Da voi un altro carro armato e da noi un sasso. Da voi una bomba lacrimogena, da noi la pioggia. È nostro quello che voi avete di cielo, di aria. Allora prendete la vostra parte del nostro sangue e andatevene. Entrate ad una festa di cena, di ballo e andatevene. Noi dobbiamo custodire i fiori dei martiri. Noi dobbiamo vivere come desideriamo. Voi, viaggiatori tra parole fugaci, come la polvere amara, marciate dove volete, ma non fatelo tra di noi come insetti volanti. L'aceto è nella nostra terra finché lavoriamo, mietiamo il nostro grano, lo annaffiamo con le rugiade dei nostri corpi. Abbiamo qui ciò che non vi accontenta, un sasso o una soggezione. Prendete il passato se volete, portatelo pure al mercato degli oggetti artistici, rinnovate lo scheletro all'upupa se volete su un vassoio di terracotta. Abbiamo qui ciò che non vi accontenta, abbiamo il futuro, abbiamo nella nostra terra ciò che possiamo fare. Voi, viaggiatori tra parole fugaci. Ammassate le vostre fantasie in una fossa abbandonata e andatevene. Riportate le lancette del tempo alla legittimità del vitello sacro o al momento della musica di una pistola. Abbiamo qui ciò che non vi accontenta, abbiamo ciò che non c'è in voi. Una patria sanguinante, un popolo sanguinante, una patria adatta all'oblio o alla memoria. Voi, viaggiatori tra parole fugaci, è giunto il momento che ve ne andiate, dimoriate dove volete, ma non tra noi. È giunto il momento che ve ne andiate e moriate dove volete, ma non tra noi. Abbiamo nella nostra terra ciò che fare. Il passato qui è nostro. È nostra la prima voce della vita, è nostro il presente, il futuro nostra, qui la vita nostra. È l'eternità. Fuori dalla nostra patria, dalla nostra terra, dal nostro mare, dal nostro grano, dal nostro sale, dalla nostra ferita, da ogni cosa. Uscite dai ricordi della memoria. Voi, viaggiatori, tra parole fugaci. Hanno diritto su questa terra alla vita. Il dubbio di aprile, il profumo di pane nell'alba, le idee di una donna sugli uomini, le opere di Eschilo, il dischiudersi dell'amore, un'erba su una pietra, madre in piedi sul filo del flauto, la paura di ricordare negli invasori. Hanno diritto su questa terra alla vita la fine di settembre. Una signora quasi quarantenne in tutto il suo fulgore, l'ora di sole in prigione, nuvole che imitano uno stormo di creature, le acclamazioni di un popolo a coloro che sorridono alla morte, la paura dei canti negli oppressori. Su questa terra ha diritto alla vita. Su questa terra, signora alla terra, madre dei principi e madre delle fini. Si chiamava Palestina. Si chiama Palestina. Mia signora, io ho diritto, perché sei mia signora. Ho diritto. Ho diritto alla vita. Bene, prima della lettura di altre poesie parliamo di Mahmud Darwish con Mario Palmieri. Intanto grazie di essere qui, Mario. Grazie a voi, grazie a te Federico. Un saluto a tutti i radioascoltatori. Allora, partiamo chiaramente dalla figura di Darwish. Beh, Darwish è tra l'altro scomparso circa un anno fa, perché lui muore a Houston il 10 agosto del 2008. Sì, lui era gravemente malato di cuore, si reca a Houston per un ennesimo tentativo delicatissimo di operazione al cuore e non sopravvivere. E lui già nell'84 e nell'88 aveva già subito altri due gravi e delicati interventi chirurgici al cuore. Darwish è una delle figure fondamentali non solo della poesia araba contemporanea, ma io direi proprio della poesia tout court. È colui che più di tutti incarna il rapporto tra poesia, arte e lotta politica, lotta per il valore della libertà. Lui si radica profondamente nella storia della sua terra, la Palestina. Già quando nasce, e il suo destino è segnato, lui nasce nel 41, e nasce in un piccolo villaggio che si chiama Al-Birwel, che poi tra l'altro poco tempo dopo la sua nascita verrà raso al suolo dagli israeliani. È la prima guerra arabo-israeliana che si svolge, siamo nel 48, e gli israeliani radono al suolo sia il suo villaggio, che infatti oggi sulle carte non esiste più, sia altri circa 100 villaggi, e lui quindi deve andarsene insieme a tantissime altre famiglie palestinesi e andrà in Libano. La sua biografia ci dice più o meno che lui, rispetto ad altre famiglie palestinesi, riesce dopo pochissimo tempo, circa un anno, a ritornare in Palestina, però ci ritorna in una condizione di assoluta illegalità. Perché? Perché in quel periodo già la Palestina, quella zona di territorio, è diventata terra israeliana. Lui si trova nella condizione spaventosa di essere un illegale, cittadino ospite illegale nella terra dove è nato. Tant'è vero che lui subisce diversi arresti, soprattutto perché lui si esibisce con le sue poesie, è illegale e vive una situazione drammatica da questo punto di vista. Darwish comincia già la sua vita con questo segno, quello di essere espropriato dalla propria terra, dai propri diritti. Un uomo che vive nella sua terra ma non è più cittadino della sua terra. È una condizione drammatica. Nel 64 Darwish scrive con Foglio d'Olivo la sua prima raccolta poetica. Il 64 è un anno particolarissimo, non solo per la poesia di Darwish, perché in questa raccolta poetica già emergono tutti i tratti fondamentali della sua poesia. Il senso di estraneità alla propria terra, la rivendicazione della propria appartenenza, della libertà del proprio popolo, la voce della poesia come voce che assume la lotta per la libertà stessa. Ma il 64, ricordiamoci, è un anno particolare, perché comincia la lotta armata. La Palestina comincia nel 64 quelle che sono le prime azioni della lotta armata di tutto un popolo. Ora, quello che voglio sottolineare, e come poi Darwish viaggerà poi in tutto il mondo arabo, andrà in Libano, andrà soprattutto a Beirut. Beirut diventerà un punto fondamentale della sua vita, sia come scrittore di poesie, sia come fondatore di riviste letterarie, ad esempio quella Al Carmel, sia di riviste più politiche come Shon Filistinia, Affari Palestinesi. Ma quello che è importante in questo periodo è la sua scrittura poetica. Io ho sempre definito Darwish un poeta che fa della sua lotta per la libertà un cammino per la libertà di tutti i popoli. Il messaggio di Darwish non è un messaggio che si lega solo alla lotta della libertà del popolo palestinese. Diventa una sorta di metafora e di emblema per tutti quei popoli che vogliono lottare per la libertà, per il riconoscimento dei propri diritti. In questo senso il valore della poesia di Mahmud Darwish è un valore assolutamente universale. Quando io, già l'anno scorso, io ebbi la fortuna di fare un locale qui a San Lorenzo, al baffo alla locanda Herman, una prima lettura di poesie di Darwish, in un momento in cui tra l'altro era scomparso veramente da pochi giorni. E invitammo a quella lettura persone che rappresentano in senso culturale, poetico, di appartenenza a un pochino quella che è la Palestina, Ali Rashid, Wasim Damash, eccetera. E tutti fummo concordi nel dire questo, che Mahmoud Darwish è grande, non solo perché la sua voce poetica e la sua lotta politica si uniscono, così che impegno artistico e impegno di vita si fondano insieme, ma perché poi lui, nelle sue poesie, attinge a un livello che può essere rappresentativo per tutta quanta l'umanità. Perché quello che appare nei suoi versi, così scabri, così duri, così segnati, così violenti, così forti, così incisivi, è quello di una nostalgia, di un esilio. Ogni essere umano che viene espropriato dalla propria terra, dalla propria cultura, dalla propria storia, vive in esilio. Lui ha vissuto un esilio ancora più drammatico, essere esiliati pur vivendo nella propria terra, stranieri in terra straniera, quando la terra è quella in cui tu sei nato. Lui a un certo punto lascerà la Palestina. La storia di Darwish è una storia importantissima anche da un punto di vista politico. Lui nell'87 entrerà a far parte dell'esecutivo dell'OLP, esprimerà l'ala più dura, più intransigente, no? dell'OLP, tant'è vero che si creeranno due anime all'interno della struttura dell'OLP, quella più disponibile a un dialogo e a una rinuncia di certe cose della lotta armata palestinese, e quella rappresentata ad esempio da Darwish, più intransigente, più dura, tant'è vero che nel 93 poi lui lascerà la struttura dell'OLP perché sarà in polemica con Arafat per quanto riguarda il trattato di Oslo, non accetta alcune concessioni che Arafat farà su questo. Questo sarà sempre un, e in questo momento poi in fondo il problema è quello, rimane quello. Ma quello che io desidero considerare, spero che nella lettura di questi versi che ora abbiamo fatto emerge: se noi non sapessimo che Darwish è palestinese, però credo che da questi versi emergerebbe comunque che Darwish parla a nome di tutti quanti che hanno perduto la propria terra. Potrei dire, potrebbe parlare per gli armeni, potrebbe parlare per i curdi, potrebbe parlare per gli indiani d'America che non hanno più nulla. In un certo senso mi è venuta a un certo punto l'idea che forse le figure più vicine a Darwish, il popolo, sono gli indiani d'America, che vivono sulla loro terra ma non ce l'hanno più, che sono gli estranei degli estranei, gli ultimi degli ultimi, o gli aborigeni australiani, che vivono, continuano a vivere nella terra ma non ce l'hanno più, e vengono visti come degli alieni, come degli intrusi, come degli strani, da chi in fondo della loro terra si è impossessato. E questo in fondo. Quindi la voce di Darwish, al di là del fatto che possa parlare della Palestina, questo è importante perché la Palestina è al centro della sua storia e della sua vita e del suo essere poeta, però diventa voce per tutti coloro che la propria terra, la propria cultura non ce l'hanno più, che sono in esilio fisico per il mondo, o che pur continuando a essere nella loro terra sentono che quella terra non gli appartiene più. La grandezza di Darwish è questa. Quando un anno fa si è spenta questa voce, si è spenta forse la voce di chi rappresentava tutti gli ultimi della terra in un certo qual senso. Coloro che camminano alla ricerca ancora di un luogo dove poter stare. C'è una poesia che a me è sempre colpito molto di Darwish, tra tutte quelle che abbiamo letto, e il suo titolo è Fra Rita e i miei occhi. La Rita di cui abbiamo parlato è una ragazza ebrea con cui lui ha vissuto questo straordinario rapporto d'amore, e tra loro è calato un muro simboleggiato da questo fucile, dalle armi, dalla guerra. Ma io mi chiedo, Rita potrebbe essere benissimo al tempo della guerra in Irlanda, la ragazza protestante e lui un ragazzo cattolico, viceversa, oppure nella guerra in Jugoslavia. Poteva essere una ragazza islamica separata da un ragazzo serbo. Quanti sono morti sul famoso ponte, no, di Sarajevo? Quanti? Ora, in questo senso, la strandezza di Darwish è questa. In questi versi, splendidamente costruiti, con una essenzialità. Quando abbiamo fatto lo spettacolo a Fenas Caffè qualche giorno fa, c'era il regista, attore tunisino Adel Bakri, che leggeva in arabo le poesie che io leggevo in italiano. Nella struttura della lingua araba è chiaro che si può apprezzare ancora di più la grandezza musicale, stilistica di Darwish. Una traduzione è sempre un tradimento, in certo qual senso. Però quello che rimane fondamentale è la capacità di Darwish di attingere a un punto universale che ci vale per tutti noi come lezione. Darwish può parlare a chiunque sulla terra in questo momento abbia una terra, una patria, una cultura, un'anima da rivendicare, che gli è stata sottratta e tolta. È per questo che la voce di Darwish, con una forza unica e straordinaria, ci dà la possibilità, ancora oggi che lui non c'è più, leggendo le sue poesie, di parlare per quelli che non hanno più nulla, gli ultimi degli ultimi. E tutti quelli che hanno vissuto nei giorni drammatici dell'ultima guerra in Palestina, sotto i bombardamenti, sotto le devastazioni, tra i corpi di bambine, donne, vecchi, non possono non ricordare questi versi di Darwish. È per loro che Darwish ha scritto. Ma ha scritto anche per tutti quelli che dall'Africa all'Asia, all'America Latina, sono morti per la stessa identica ragione. Credo che Darwish sia una lezione poetica e di vita estrema, straordinaria, forse oggi come oggi difficilmente ritrovabile in un altro poeta. Ci manca molto Darwish. L'unica cosa che possiamo fare è leggere i suoi versi. In fondo il poeta, l'artista, sa che deve morire, che la sua unica possibilità è quella di lasciare nelle sue opere quella testimonianza che permetterà agli altri di farlo rivivere ogni volta che atteggeranno la sua opera artistica. Leggendo Darwish, qui ad esempio leggendo Stato d'assedio, che è stata la prima poesia, quando lui dice questo verso che per me è straordinario, quindi dice: non c'è notte nella nostra notte illuminata da una pioggia di bombe, i nostri nemici vegliano, sono i nostri nemici che accendono per noi la luce, il fuoco della distruzione nell'oscurità dei sotterranei. E lui, mi sono chiesto, quante donne, quando c'è stata l'ultima strage, gli ultimi bombardamenti, prendendo tra le braccia il corpo del proprio amato, hanno detto: copri il mio amato perché ho le vesti grondanti del suo sangue. E quante madri, e l'abbiamo visto, i corpi di quei bambini, hanno detto, hanno cantato quest'ultima Ninna Nanna scritta da Darwish: se non sei pioggia, amore mio, sii albero, se non sei pietra, amore mio, sii luna nel sogno dell'amata, sii luna. Così una donna che dava sepoltura al figlio. Ecco, questi sono versi che possono valere in qualunque spazio e tempo, e per questo c'è la grandezza infinita di Darwish. Durante la sua residenza a Parigi, Darwish ebbe uno scambio di corrispondenza con il poeta Samih al-Kazim, che era rimasto a vivere nel suo villaggio di Harrama in Galilea. E le lettere scambiatesi tra i due poeti furono chiamate da qualche letterato lettere fra le due metà di un'arancia. Leggiamo alcuni stralci di questa corrispondenza. E da questa corrispondenza si può intuire come i due poeti ebbero il presagio dello scoppio della prima intifada. Samih al-Kazim, Harrama, 29 giugno 1986. Un conforto? Esiste sempre un lieto fine, sai? Noi non perderemo la speranza, almeno per le generazioni future. Caro amico mio, c'è sufficiente dipingere con l'inchiostro dell'anima e con il sangue della poesia una chiara freccia, spero almeno che sia chiara, che indichi la direzione giusta verso il nostro carrubo, il nostro ulivo, i fiori della nostra splendente prugna. Mahmoud Darwish, Parigi, 22 luglio 1986. Amico mio, la fine di questa notte non ha termine. E il feto formato dentro questo utero infermo ha forse potuto salvarsi dal malessere? Vedi, io non propongo una risposta. Piuttosto torreggio su un deserto. Come si chiamerebbe l'isola se si asciugasse il mare? Vedi, amico mio, non propongo una risposta. Piuttosto torreggio su un deserto. Samih al-Kazim, Haifa, 27 luglio 1986. E che cosa ancora dovremmo aspettare, amico? Forse non è giunto il momento in cui l'affanno della domanda venga ricompensata dal sollievo della risposta. E qui giunge la nostra parte, sai? Riconquistiamo il grido di quel passato martire: porta la tua luce e la tua croce e seguimi. Quanto a noi, vedemmo e ci agitammo, comprendemmo e ci infuriammo, credemmo e ci rivoltammo. Questa massa umana piegata sulla sua schiena iniquamente, proditoriamente, ostilmente si raddrizzerà di nuovo, vedi, e sorgerà come un unico uomo, malgrado tutti i mostri civilizzati radunati contro di noi. Noi abbiamo bisogno del nostro antico fuoco, con la sua schiettezza, perché esso è la peculiarità intima nel nostro profondo. È come il granello di sabbia che si nasconde nel profondo della perla. Mahmoud Darwish, Parigi, 5 agosto 1986. Hai ragione, amico mio. Noi abbiamo bisogno urgente della prima fede e del primo fuoco. Noi abbiamo bisogno della nostra semplicità. Abbiamo bisogno del primo insegnamento della patria. Resistere. Resistere con tutto ciò che possediamo di tenacia e di ironia, ma anche con tutto ciò che possediamo di furore. E nei momenti difficili e amari che aumentano le profezie. E allora ti dirò questo, amico mio. Eccomi vedere il viso della libertà accerchiato da due ramoscelli d'ulivo. Lo vedo sorgere potente e invincibile da un sasso. Potete legarmi mani e piedi. Potete togliermi il quaderno, le sigarette. Potete riempirmi la bocca di terra. Ma la poesia è sangue del mio cuore vivo, sale del mio pane, luce nei miei occhi. E sarà scritta con le unghie, lo sguardo ed il ferro. E io la canterò nella cella della mia prigione, al bagno, nella stalla, sotto la sferza, tra i ceppi. La canterò nello spasimo delle catene. Potete legarmi mani e piedi, riempirmi la bocca di terra. La poesia è sangue del mio cuore vivo, sale del mio pane, luce nei miei occhi. Sarà scritta con le unghie, lo sguardo e il ferro. La canterò nella cella della mia prigione. Ho dentro di me un milione di usignoli per cantare la mia canzone di lotta. Vi ho ascoltato con La Palestina nel cuore, poesia, libertà e Mahmoud Darwish, lettura di Mario Palmieri. Tra qualche istante parleremo con Mario dell'opera di Darwish e anche del suo lavoro.